Saga Po, amore e musica, è un ritorno alle radici, un ritorno ai nostri ricordi. Il pensiero della morte ci inganna, ci fa dimenticare di vivere, ci condanna. La verità è sulle labbra degli uomini morenti, come te papà nella rosa dei venti. Voglio vivere ogni giorno come fosse l'ultimo. La vita è meravigliosa come un pubblico, come un tatuaggio che mi parla, come un ballo mascherato in cui si balla. E la morte completa l'uguaglianza degli ineguali, è fredda la mia stanza. E come la giustizia non perdo la speranza di rivederti, di abbracciarti. E la morte non è una sigaretta calpestata a terra, dimenticata in fretta. È una scialuppa di salvataggio, non è un addio, è un nuovo viaggio. E senza di te nell'universo la morte non è un punto, è una virgola. Ma sto reggendo, pregando che mi stai vicino, tenendo la tua foto sotto il mio cuscino. Sono tanti anni che mi manchi, gli occhi troppo stanchi da tanti pianti. Vivo in un labirinto senza via d'uscita, ora che ho perso parte della mia vita. Ma devo avere la forza per andare avanti, perché fermarsi, inventarsi menzogne per avere rimpianti. Perdendoti ho sentito una scossa, un tormento, angoscia, sofferenza e tutto il resto struggimento. Credo di doverti dire qualcosa perché ti tengo nel mio cuore qui con me. Ricordo affetto è stato quel passato, mi ha protetto, coccolato, ma infine mai lasciato. Tante cose insieme abbiamo condiviso, ma senza avere tempo per un ultimo sorriso. Senza di te nell'universo la morte non è un punto, è una virgola. Siamo ancora le cose di un tempo, così piccole e fuggevoli, dalla porta accanto. Io sento il vento, è la tua voce, mi parli senza tempo. Ti cade il mondo addosso, la vita è una battaglia. Papà mi proteggi, in te trovo la forza. La morte è come un film, è una pellicola. La morte non è un punto, è una virgola. Senza di te nell'universo la morte non è un punto, è una virgola. Siroblio, Saga Po, Boyz Clan.